Questo è un podcast di Rivista Militare. Percezione contro realtà. La propaganda di Air Doctor Joseph Goebbels, di Giuseppe Cacciaguerra. Atto finale. Berlino, bunker della Cancelleria del Reich. Sono le 20:30 del 1 maggio 1945. Joseph Goebbels e la moglie, dopo il brutale infanticidio dei 6 figli, si suicidano. Il mondo che verrà dopo il nazionalsocialismo non sarà degno di essere abitato. Così esce di scena, in maniera volutamente tragica e spettacolare, un indiscusso protagonista del XX secolo. Questa morte doveva testimoniare l'essenza di una vita ambientata in una realtà dalla presa del potere nazista, ai vertiginosi successi e all'altrettanto abissale caduta, sostenuta da menzogne, costantemente manipolata. Una vera e propria opera teatrale con sfumature di verismo di cui l'abile regista fu sempre lui. Joseph Goebbels, appellato Herr Doktor dal Führer. Come riuscì in questa disumana e titanica impresa? Nel proporre una sintetica risposta, saranno evidenziate, per l'importanza e l'attualità riscontrabili ancora oggi, le metodologie e le tattiche usate per creare quell'unità di spirito tra popolo e ideologia cui furono prova le rovine fumanti della Germania. Nella sua classica opera Il volto del Terzo Reich, Joachim Fest scrive: «Il nazionalsocialismo ebbe il suo genio della propaganda. Tale fu Goebbels, senza dubbi. Uomo contraddittorio, affetto da disturbo narcisistico della personalità, insicuro, sovente depresso e con propositi suicidi, ossessionato, geloso e follemente innamorato di molte donne, poco rispettate in vero, visto che dovevano sentire di avere un padrone. Non fu proprio un prediletto dalla natura, infatti la già gracilissima corporatura fu menomata da una malattia che gli causò un piede deforme con gravi ripercussioni psicologiche al punto che nel dopoguerra si spacciò per reduce invalido. Negli studi e nella smodata ambizione, però, eccelse, forse per compensare il resto. Dal 1923 alla morte tenne un diario, già elemento significativo in ottica propagandistica e di autopromozione per i posteri. Il 13 marzo 1924 profeticamente vi scrisse: «Mi sto interessando a Hitler e al movimento nazionalsocialista e senz'altro dovrò farlo per un bel pezzo». Ancor più causticamente, in altra pagina riportò: «Non importa in cosa crediamo, basta credere». Quest'ultima frase è molto indicativa del personaggio, che da letterato fallito, compiangendosi, annotava: «Nessuno paga per la mia spazzatura», e che troverà il suo messia nel caporale austriaco che incarnava la voce del cuore. Fu ricambiato. Hitler lo apprezzò rapidamente e gli affidò la propaganda del partito dall'aprile del 1930. E con abbraccio mortale gli si legò fino alla fine. Totalmente disinteressato al contenuto del programma da appoggiare, etico, politico o sociale che fosse, si occupò invece con gran profitto di come promuovere quel contenuto. D'altronde amava ripetere che Cristo, nel discorso della montagna, mica fornì prove, formulò solo tesi. Affinché una propaganda sia efficace, quindi, si può dedurre che il primo effetto da ricercare è la creazione di percezioni favorevoli. Poco importa la connessione alla realtà, non servono prove scientifiche. Percezione contro realtà, dunque. Per imbastire una seria propaganda, però, servivano soldi. All'inizio non ne ebbe molti a disposizione, per cui si affidò a riunioni, dibattiti e incontri facendo leva sul volontariato. Ovunque, dalle piazze ai posti di lavoro, utili i volantini, ma costavano molto ed erano efficaci solo in grandi numeri. Sfruttò pertanto i manifesti. Per il loro impiego prese spunto dalla pubblicità commerciale americana. Tutti uguali, con colori sgargianti, frasi brevissime e semplici da diventare slogan, uso massiccio di esclamazioni, ma soprattutto leggibili in un minuto. Operativamente, l'obiettivo era consolidarsi in alcuni centri e da lì muovere verso le periferie. Il luogo prediletto per la propaganda, secondo Goebbels, era la strada. Vince chi avrà l'egemonia della strada. Al giorno d'oggi la strada tradizionale ha forse una minore importanza perché scalzata da quella digitale di internet e dai nuovi luoghi sociali che essa offre. che sia fisica o digitale, in fin dei conti, poco importa. È lì che bisogna vincere, perché la strada va conquistata a qualunque costo e per Goebbels era inclusa la violenza. Anche quest'ultima, infatti, sarà un moltiplicatore del passaparola. Secondo il vecchio adagio, bene o male, purché se ne parli. Va rilevato poi che Herr Doktor spiccava nell'impressionante mediocrità dell'entourage nazista, con l'esclusione di Albert Speer. Era colto e laureato, così come il suo fisico non lo aiutava affatto. Zoppo e mingherlino, circondato da gente manesca, alta, bionda e tutta muscoli, che in definitiva lo disprezzava, considerandolo un intellettuale minorato fisicamente, mezzo gesuita e mezzo francese. Nonostante tutto, seppe farsi valere perché le sue abilità erano indiscusse. Oratore abilissimo, grande attore davanti al pubblico, eccellente organizzatore e lavoratore instancabile. Aveva ben chiaro, già dall'esordio, che l'unica propaganda buona era solo quella che raggiungeva l'obiettivo. Non esistono propagande belle o brutte, solo vincenti o perdenti. Il suo modo d'agire era duro, negli scritti era violento, facile all'offesa ed irriguardoso al punto che si salvò da numerose cause processuali grazie all'immunità quale membro del Reichstag dal 1928. Tuttavia, alle elezioni presidenziali del 1932 Hindenburg risultò vincitore, nonostante gli sforzi profusi e le innovazioni adottate, quali gli spostamenti in aereo per la campagna elettorale e l'ampio uso di discorsi radiofonici. Pochi mesi dopo, però, Hitler fu nominato cancelliere e a Goebbels fu affidato il Ministero dell'Educazione Popolare e della Propaganda. Delle due, amava di più la seconda perché attiva, mentre la prima la riteneva passiva. Con questo incarico e ampie disponibilità, la sua inventiva trovò libero sfogo. Raduni grandiosi e scenografie maestose da far invidia ai film hollywoodiani furono la regola. Quale esempio, ben descritto nella magistrale ed insuperata opera di Peter Lungerich, Goebbels, una biografia. In occasione della visita di Mussolini a Berlino, nel settembre del 37, ricevette di persona il Führer e il Duce con queste parole: «Annuncio, 3 milioni di persone partecipano alla storica manifestazione». Usò in modo massiccio ma oculato la radio, che non doveva dimenticare mai il suo ruolo di intrattenimento. Finanziò pubblicamente il cinema, che doveva legarsi a vicende vere. Impiegò con accortezza la stampa, che, inquadrata statalmente, doveva informare, ma pure educare e istruire il popolo. Si premurò che l'arte fosse eroica e la letteratura, infine, mondata dalle influenze giudaico-intellettuali. Non a caso fu proprio Goebbels, in occasione del rogo dei libri, a parlare di opera di rieducazione della Germania. Dall'inizio alla fine del suo progetto, mirò sempre ad avere un capillare controllo verticistico della propaganda, decisa dall'alto ed imposta alle ramificazioni più in basso. In tutte le fasi delle varie propagande adottate, però, ci fu sempre un leitmotiv: avere un nemico. Il nemico serviva a catalizzare le forze o a distrarle, a seconda delle circostanze, che poi, mutando, spostavano l'obiettivo su altro o altri. Basti ricordare l'incredibile giravolta con il patto Molotov-Ribbentrop, per cui si attaccarono i traditori di Versailles, la Repubblica di Weimar, i comunisti, gli ebrei, le plutocrazie, la Chiesa. In ogni caso, ed indipendentemente dal nemico da colpire, la propaganda andava tassativamente organizzata fin nei minimi dettagli e possibilmente bilanciata tra ottimismo e realismo. Quando ciò non era possibile, non restava che ignorare certi fatti, non commentandoli. Sul tema aiutano le parole oggettive dello stesso Goebbels. Ogni politica informativa dai toni troppo ottimistici comporta sempre, a breve o lungo termine, gravi delusioni. Infatti, appena si accorse che la guerra non sarebbe stata breve, puntò tutto sulla capacità di resistenza del popolo per la salvezza del Reich e dal vinceremo passò al dobbiamo vincere. Il discorso sulla guerra totale al Palazzo dello Sport di Berlino, il 18 febbraio del 1943, è considerato la sua opera migliore, perché al contempo spaventosamente mefistofelica ed efficacissima. Per Hitler fu un capolavoro psicologico e propagandistico di prim'ordine. Giusto un assaggio. Per 10 volte interpellò gli astanti con domande tipo: «Volete la guerra totale? Se necessario, volete una guerra più totale e radicale di quanto mai oggi possiamo neppure immaginare?» Il pubblico, in totale delirio e ipnotica esaltazione, rispose tutte le volte con un uragano di consensi, mentre l'oratore concludeva il suo lungo intervento con lo slogan: «Ora, popolo, sorgi, tempesta scatenati!» Ma la tempesta ormai si addensava sulla Germania. Goebbels lo sapeva. Tenne fede comunque al suo proposito scritto sull'inseparabile diario il 7 agosto 1932. «Una volta che avremo preso il potere, non lo lasceremo più. Dovranno portare via i nostri cadaveri». E così fu. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.